Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quanti di voi, ragazzi, negli anni sono iscritti a Facebook? Sulle mani. O anche dietro. Giù le mani. Chi è iscritto a Twitter? Voi siete fuori da qui. Chi di voi usa WhatsApp? Non dimenticate mai che qualsiasi messaggio si dice virtuale su Facebook non vale la bellezza di un abbraccio fisico. E questo è vero, nessuna cosa social, virtuale, eccetera, vale più di un abbraccio fisico, garanzia, detto da Matteo Renzi, oggi erano in una scuola a Siracusa. Sapete che adesso, come c'è l'omelia del Papa una volta alla settimana, c'è anche l'incontro di Renzi una volta alla settimana con una scuola in Italia. Oggi era a Siracusa, parlava con i ragazzini, avete sentito, di social network, di chi scrive su Twitter, loro erano un po' piccoli effettivamente, però dice nulla vale come un abbraccio. E Renzi tra l'altro continua con una carica energetica straordinaria, perché tra l'altro proprio da Siracusa ha detto: entro una settimana il piano casa, il Jobs Act e 2 miliardi per la scuola. Vedevo poco fa che adesso esce il Colossal Tarzan, ecco, diciamo che probabilmente si sente anche molto ispirato da questo Renzi, gli facciamo tutti gli auguri possibili, visto che se va bene a lui va bene al paese. Staremo a vedere, ma intanto capiamo e vediamo com'è andata la giornata di oggi in una prima sintesi. E c'è il monito dell'Unione Europea all'Italia: troppi debiti e bassa competitività, e la replica del Ministero del Tesoro è frenati dal cuneo fiscale. E Renzi annuncia mercoledì Jobs Act, scuola e piano casa. E poi la missione OSCE in Ucraina, smentita la notizia del fermo dell'inviato ONU a Simferopoli, e fonti americane fanno sapere che non c'è per ora nessun accordo con la Russia. Nobel per la pace, Papa Francesco candidato, ma nella lista c'è anche Putin e la talpa Snowden. E per il calcio si gioca questa sera alle 22 al Calderon di Madrid dell'amichevole Spagna e Italia a 3 mesi dal mondiale. Azzurri in campo con 3 oriundi: Osvaldo, Thiago Motta e Paletta al suo esordio in nazionale. Iniziamo quindi da questo monito dell'Unione Europea all'Italia, quindi diciamo un'altra grana sulle spalle di Renzi. Oggi a Bruxelles la Commissione Europea ha messo l'Italia sotto osservazione per squilibri eccessivi, sollecitate ancora una volta quindi degli interventi urgenti. In Italy, persistent high public debt. Il commissario agli affari economici Rehn fa la lista, e nella lista c'è anche l'Italia. Gli squilibri economici non sono una novità, la Commissione però ritiene che siano eccessivi. Di passi avanti Roma ne ha fatti, ma a Bruxelles li giudicano discontinui. L'Italia ha fatto progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di medio termine dei conti pubblici, ma nonostante questo l'aggiustamento strutturale per il 2014 appare insufficiente, soprattutto alla luce della necessità di ridurre il debito ad un passo adeguato. A rispondere non è il Premier ma il Ministero delle Finanze. Il governo intende dare una svolta, le riforme previste sono in linea con l'ambizioso piano richiesto dall'Unione Europea. Sulla competitività e sul cuneo fiscale siamo pronti a fare il necessario, scrivono da Via 20 Settembre. E ancora sul debito, il problema è tutto nella bassa crescita. La parola finale la mette il capo dello Stato. Nel semestre di presidenza porrò in primo piano l'obiettivo della crescita e della lotta alla disoccupazione. Una crescita sostenibile e compatibile con l'equilibrio dei conti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di una cura shock per l'Italia ha parlato appunto da Siracusa il presidente del Consiglio Renzi. 2 miliardi per l'edilizia scolastica, Jobs Act e piano casa, tutto questo entrerà nel Consiglio dei Ministri di mercoledì. Provvedimenti corposi, misure shock di cambiamento, sprechiamo la ripresa, ha detto Renzi durante la sua visita a Siracusa, seconda tappa del suo tour per l'Italia, dove ha incontrato prima gli studenti di una scuola, i sindaci, poi gli imprenditori locali. Mercoledì presentiamo il piano casa che stiamo rivedendo in modo tale da poter dare un segnale. Noi mercoledì immaginiamo di intervenire sul Jobs Act, sugli interventi sulla scuola, sugli interventi per il piano casa. Piccola contestazione fuori dalla scuola, calorosa invece l'accoglienza da parte degli studenti. Renzi cita la grande bellezza, parla del potere dei sogni, dei social media e raccomanda di non sostituire rapporti reali con quelli virtuali. Non dimenticate mai che qualsiasi messaggio si dice virtuale su Facebook non vale la bellezza di un abbraccio fisico. Agli imprenditori invece chiede meno incontri reali, meno tavoli e più mail. Mandate una lista delle cose da fare entro il 31 marzo, vi daremo una risposta in tempi certi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Visto che di cose da fare ce ne sono poche, insomma, il presidente di Confindustria Squinzi intanto dice: siamo pronti a collaborare, ma non ci saranno sconti. E afferma di condividere il no a quei tavoli che spesso e volentieri non risolvono i problemi, aggiungendo però di essere di una generazione precedente a quella dell'email. Non le amo, preferisco guardare negli occhi le persone, ha precisato. Intanto al via a Montecitorio, alla Camera, le votazioni sull'Italicum, nessuna richiesta di dimissione per i sottosegretari indagati. Questa volta il PD a fare quadrato, dopo il caso Gentile scoppia quello di Barracciu sulle nomine dei sottosegretari. L'esponente democratico è indagata per sperpero di denaro pubblico in Sardegna, ma non saranno chieste dimissioni, almeno questo è quanto dice il ministro dei rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. Ad oggi il sottosegretario di Stato Barracciu risulta nell'elenco degli indagati. Non è intenzione di questo governo chiedere dimissioni di ministri o sottosegretari sulla base di un avviso di garanzia, ma eventualmente per motivi di opportunità politica. In aula intanto a Montecitorio approda l'Italicum dopo il sofferto sì di Forza Italia ad una legge elettorale valida per la sola Camera dei Deputati, Renato Brunetta. Potevamo tranquillamente dire i patti si rispettano, abbiamo preferito per il bene del Paese continuare ad andare avanti sulla linea delle riforme, riforme della legge elettorale, riforme costituzionali. Il Movimento 5 Stelle attacca per Beppe Grillo con il pregiudicatellum, il tuo voto vale zero. La riforma varrà solo per la Camera perché il progetto del Premier Matteo Renzi prevede un Senato su base federale e lo scavalcamento del bicameralismo perfetto. Sulla riforma mi gioco la vittoria, spiega Renzi, mentre il capo dello Stato Giorgio Napolitano invita a lasciar lavorare la Camera. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche di legge elettorale, lo avete sentito, ha parlato dall'Albania il capo dello Stato Napolitano, preoccupato per la crisi ucraina. Il nostro augurio è che queste tensioni vengano rapidamente disinnescate, che si trovi la strada della moderazione, della reciproca comprensione, in maniera che nell'indipendenza e nell'integrità dell'Ucraina si possa avere sia da parte dell'Unione Europea sia da parte della Russia uno sviluppo positivo dei rapporti con questo paese e questo popolo che costituisce parte non lieve del nostro orizzonte strategico. Per quanto riguarda l'Ucraina, gli Stati Uniti fanno sapere che ancora non c'è nessun accordo con la Russia e che sono pronti ad aiutare l'Ucraina anche sul fronte degli armamenti. Insomma, quindi la situazione è sempre molto convulsa, molto tesa. Comunque sul fronte della cronaca poi ci colleghiamo direttamente tra poco con Antonella Scotta a Kiev. Passiamo invece adesso alla maxi multa dell'antitrust a due colossi farmaceutici, accuse prive di ogni fondamento. Così l'azienda farmaceutica Roche respinge le conclusioni del procedimento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato circa un presunto accordo restrittivo della concorrenza fatto da Roche con Novartis. Un patto segreto per favorire un farmaco carissimo a scapito di un altro low cost ugualmente efficace. È quello siglato tra i due colossi mondiali Roche e Novartis, costato al sistema sanitario nazionale 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri fino a oltre 600 milioni di euro. Un cartello che ha condizionato le vendite dei principali prodotti destinati alla cura della vista, Avastin e Lucentis, e che l'antitrust ha deciso di sanzionare con una maxi multa da 180 milioni di euro. I due gruppi, ha reso noto l'autorità, si sono accordati illecitamente per ostacolare la diffusione del più economico Avastin a vantaggio del più costoso Lucentis, differenziando artificiosamente i due prodotti, presentando il primo come più pericoloso del secondo e condizionando così le scelte di medici e servizi sanitari. Una condotta che trova spiegazione nei rapporti tra i due gruppi, nella partecipazione di Novartis in Roche e in quella di quest'ultima in una società californiana che ha sviluppato entrambi i farmaci. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca con la terribile vicenda della giovane donna e del suo bambino uccisi a Milano. Era presente anche il figlio dell'assassino, un bambino di 5 anni, nell'appartamento dove ieri pomeriggio sono stati trovati i cadaveri appunto della donna e di suo figlio. Emerge questo dal racconto del responsabile che ha confessato. L'uomo avrebbe perso la testa, così ha detto lui, dopo aver bevuto 20 birre. Ha ucciso Libani Meja, 29 anni, e suo figlio di 3 anni e mezzo perché la donna aveva rifiutato le sue avance. Questa la motivazione del duplice omicidio avvenuto a Milano, che Victor Gomez ha raccontato agli inquirenti. La donna era amica della moglie del fermato. Lui, padre di un bambino di 3 anni e mezzo, lunedì sera era andato a cena da lei e si era portato anche suo figlio. Mentre i bambini giocavano assieme, lui, ubriaco, ha tentato di avere un rapporto con la donna. Vedendosi più volte respinto, ha preso un coltello e l'ha uccisa. I bambini, attratti dalle urla, sono arrivati in sala e lui a quel punto ha ucciso il figlio di lei. Poi ha gettato via il coltello per strada ed è uscito con il suo bambino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una notizia tra gossip e politica. Matrimonio in vista tra Berlusconi e Francesca Pascale. Il direttore del quotidiano di Ischia, Il Golfo, Mauro Iovino, conferma la notizia. L'ho intervistato la nostra Enza Loddo. Il senatore De Siano stamattina è stato intervistato da Radio Marte, il cui conduttore Gianni Simeoli ha simulato di essere un sindaco del suo partito. Il senatore inizialmente ha smentito anche nel corso telefonale, però a un certo punto ha detto che è tutto in itinere, in sostanza. Ah, tutto in via di definizione, ha detto. E quindi più o meno... Una smentita della smentita. Io ho sentito stamattina il sindaco di Laccameno, gli ho chiesto e mi ha detto è possibile, anche se ha aggiunto che finora non sono stati presentati i documenti. Questo è fino ad ora l'indiscrezione. Avete sentito, per quanto riguarda il Nobel per la pace, c'è la candidatura di Papa Bergoglio, ma c'è anche quella data al Papa Snowden e di Putin. Voi chi candidereste al Nobel per la pace? C'è sempre la pagina Facebook per voi di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure potete scrivere attraverso i messaggi 349-238-6666. Avete la possibilità di candidare qualcuno al premio Nobel per la pace. Intanto chiudo con il calcio. Si gioca alle 22, quindi alla fine di Effetto Notte. Alle 22 di questa sera il Calderon di Madrid, l'amichevole Spagna-Italia, amichevole di lusso a 3 mesi dai mondiali. Azzurri in campo con 3 oriundi, Osvaldo, Thiago Motta e Paletta al suo esordio in nazionale. Bene, fin qui il riassunto della giornata e poi man mano approfondiremo alcuni argomenti. Adesso aggiorniamo però chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre con voi Roberta Giordano. Prima di salutare il primo ospite di questa sera, vi ricordo quali sono stati gli argomenti, le notizie principali della giornata. Partendo dall'ulteriore monito, intanto ne arrivano dell'Unione Europea all'Italia, a troppi debiti e bassa competitività, la replica del Ministero del Tesoro, e siamo frenati dal cuneo fiscale. E Renzi annuncia per mercoledì Jobs Act, scuola e piano casa. E poi c'è la possibilità di, si parlava oggi di un accordo di prova di dialogo tra Stati Uniti e Russia, però per il momento gli Stati Uniti confermano che non c'è nessun accordo e la NATO fa sapere aiuteremo la capacità militare di Kiev. Nobel per la pace, Papa Francesco candidato, nella lista però anche Putin e la talpa Snowden. E poi per il calcio vi ricordo che si gioca alle 22 di questa sera al Calderon di Madrid dell'amichevole Spagna-Italia. Dunque, avete sentito, ogni tanto l'Unione Europea ci dice bene, avanti con le riforme, abbiamo fiducia in Renzi, Padoan saprà cosa fare, e poi di tanto in tanto arrivano anche le bacchettate sotto la lente dell'Unione Europea. Di nuovo siamo finiti, perché dice ci sono degli squilibri eccessivi. Gerardo Pelosi, inviato del Sole 24 Ore. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Io sono a Bruxelles perché in realtà domani mattina arriverà qui il Premier Renzi per partecipare a un Consiglio europeo straordinario che era fissato per discutere e affrontare la crisi dell'Ucraina. Ma subito dopo questo vertice lui incontrerà il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy, ed è abbastanza scontato che sicuramente si parlerà anche di questo ennesimo monito sui conti pubblici italiani. Infatti, secondo l'Unione Europea, la Commissione, soltanto Croazia e Slovenia sono stati considerati insieme all'Italia paesi con i cosiddetti squilibri eccessivi, mentre non lo è più la Spagna, mentre invece Grecia, Portogallo, Cipro e Romania sono i cosiddetti paesi sotto programma per gli aiuti, non sono stati considerati in questa analisi, no? Come tu dicevi, la Commissione ha puntato il dito sulla limitata produttività del lavoro in Italia, che deve correggere un alto livello di debito pubblico e una debole competitività. Entrambi questi fattori derivano, secondo la Commissione, dalla lenta crescita e richiedono interventi urgenti, e le misure strutturali del programma del 2014 non sono per Bruxelles sufficienti per porre rimedio a questi fattori distorsivi. Anche se, Gerardo Pelosi, ogni volta che si dice, capisco la competitività, ma la bassa produttività che cosa significa? Che i lavoratori italiani vanno lenti, che producono poco, o a che cosa si riferisce l'Unione Europea secondo te? No, si riferisce evidentemente a una, come dire, innanzitutto a un elevato debito pubblico e soprattutto a una manovra strutturale che non riesce a correggere quelli che sono dei fattori strutturali ormai dell'economia italiana, e quindi la mancanza di nuovi posti di lavoro e soprattutto una crescita economica che anche se lentamente sta risalendo, ma parliamo di ultra decimali, dal segno negativo. È vero che nell'ultimo periodo di Letta siamo passati al segno positivo, ma secondo l'Unione Europea occorrerebbe una crescita molto, come dire, prolungata nel tempo e significativa, molto più significativa. Diciamo che è l'unico dei grandi paesi dell'Unione Europea che non sta crescendo, anche se di poco. Cresce e è aumentato il PIL, ma di veramente di decimali nell'ultimo trimestre. Tra l'altro ha detto proprio l'Unione Europea: l'Italia ha squilibri macroeconomici eccessivi che richiedono uno speciale monitoraggio da parte dell'Unione Europea, che farà rapporto all'Eurogruppo sulle riforme italiane. Esatto. E a giugno deciderà ulteriori passi. Chissà quali saranno. Esatto, questi passi. Questo è come dire la classica procedura della Commissione Europea. Lunedì all'Eurogruppo il nuovo ministro Padoan presenterà le priorità di politica economica del nuovo governo e quindi in realtà si discuterà d'Italia, ma anche di Francia in quella fase, e spiegherà quali sono le misure che l'Italia intende adottare il 12 marzo. Devo dire che con molta abilità il premier Renzi ha utilizzato questo ulteriore monito per spiegare che sono conti e misure, cifre molto dure quelle di Bruxelles, e spero, dice nel tweet, che sia chiaro che noi dobbiamo cambiare verso, ne parliamo il 12 marzo, giorno in cui appunto sono attese le prime misure economiche del governo a partire dal Jobs Act. Staremo a vedere, avrà il suo bel da fare domani Renzi anche a convincere l'Unione Europea che sarà in grado di portare avanti delle riforme che i governi precedenti non sono riusciti a concretizzare. Assolutamente, no? Assolutamente sì, e in realtà questa crisi ucraina ha un poco rivoluzionato quella che era l'agenda europea di Renzi, e invece del tradizionale omaggio alle istituzioni europee che tutti i premier appena insediati fanno, Renzi ha deciso ieri di andare a Tunisi, mettere al centro della sua attenzione il Mediterraneo, immaginando che poi il primo contatto con la Commissione e con le istituzioni europee ci sarebbe stato il 20 e 21 per il Consiglio europeo. E prima ancora il 17 marzo a Berlino con il vertice intergovernativo italo-tedesco con la cancelliera Merkel. Gerardo Pelosi, io ti ringrazio, e se mai ci aggiorniamo domani allora da Bruxelles, vediamo a che domani, cosa ha portato a casa Renzi. Grazie a tutti voi. Ciao Gerardo. E dall'inviato Gerardo Pelosi all'inviata Antonella Scott a Kiev. Ciao Antonella, sempre del Sole 24 Ore. Buonasera. Antonella, allora io ti volevo chiedere un po', visto che sei a Kiev, che atmosfera si respira, perché noi da qui abbiamo un'idea di un assediamento generale, di piazze vuote, di picchetti, di soldati, e anche se vedevo adesso un aggiornamento dall'Ucraina, la NATO che dice aiuteremo la capacità militare di Kiev. Questo è un po' preoccupante, come, aspetta che la leggo meglio, la NATO ha deciso di intensificare la partnership con l'Ucraina, di aumentare l'impegno con la leadership civile e militare di Kiev. In questo quadro rafforzeremo il nostro sforzo per costruire la capacità militare dell'Ucraina, compreso più esercitazioni e addestramento comuni, lo ha detto il segretario generale della NATO Rasmussen. Non sono affermazioni da poco, quindi. No, certo, anche se vanno un po' in una direzione che Mi sembra tra l'altro che invece sul fronte della riunione dei ministri degli esteri non ci sia neanche potuto essere un incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il ministro ucraino. Quindi ecco, uno sviluppo come questo della NATO sicuramente non aiuterà in questo momento, certamente va in direzione di quanto auspicato dai nuovi governanti ucraini, però non va ad aiutare la possibilità di rimettere in piedi o di creare un negoziato con la Russia, con cui poi comunque bisognerà a un certo punto trovare una via d'uscita a questa crisi che davvero sembra difficile, veramente difficile si possa trovare un punto di incontro. Vedevo tra l'altro che l'ambasciatore, vediamo di che ambasciatore si trovava, si tratta, perché anche questa l'ho letta velocemente poco fa l'agenzia mentre parlavo di altro, l'ambasciatore russo presso la NATO, ecco, Grushko, ha detto la Russia è rammaricata per i tentativi di dipingere una situazione di conflitto tra Russia e Ucraina che non c'è, non può esserci e non ci sarà. Ha detto molti paesi occidentali hanno fatto pressioni sulla pubblica opinione perché facesse la scelta giusta, mentre siamo stati testimoni di interferenze. Insomma, dice noi non abbiamo intenzione di muovere conflitti, né non ci saranno neanche in futuro. Quindi da una parte la Russia un po' mostra i muscoli e un po' soffia sul fuoco. Probabilmente è sempre trovarsi di fronte tra i due blocchi tradizionali di sempre, quasi da guerra fredda, e minacciarsi reciprocamente in modo che nessuno faccia passi troppo avventati. Infatti è proprio per questo che sembra difficile immaginare di trovare una posizione diciamo per cominciare almeno a parlarsi, se sempre di più le due parti si radicalizzano. Anche quest'oggi eravamo qui, abbiamo ascoltato Petro Poroshenko, che è uno diciamo dei candidati, in Ucraina è uno degli oligarchi più famosi, il re del cioccolato, ed è uno dei candidati alla presidenza, e lui diceva che ci anticipava che nei prossimi giorni, forse addirittura domani, potrebbe essere comunicata la data della firma dell'accordo di associazione all'Unione Europea, che è proprio l'accordo sul quale è nata la crisi, certo. Ricordiamo, era un accordo che il presidente deposto Yanukovych si era impegnato a firmare, che poi dopo su cui poi aveva fatto marcia indietro, appunto dando la ragione delle prime proteste che poi sono diventate quello che sappiamo. Ecco, adesso forse da parte del nuovo governo ad interim ucraino arrivare subito a tornare subito su quello, forse invece di arrivare di facilitare una soluzione rende ancora più difficile arrivare a potersi sedere a un tavolo di negoziato con i russi. Ma adesso, visto che tu sei intanto aspettiamo le grandi azioni, i grandi movimenti delle potenze varie, e lì a Kiev invece ti dicevo, visto che sei lì, che situazione hai trovato nella capitale? Perché la capitale è nella parte dell'Ucraina che non è filorussa, no? Come la parte dell'est, come la Crimea, dove c'è diciamo la gran parte della tensione. A Kiev che cosa succede in queste ore? Beh, a Kiev tra l'altro tradizionalmente è sempre stata una città, sì, è nella parte diciamo non considerata filorussa, ma è sempre nelle capitali, forse quelle in cui più c'è si mescolano le persone di provenienze diverse e non hanno, senza mai aver avuto problemi, quindi anche in questi giorni si sente parlare ugualmente ucraino o russo da persone che magari hanno comunque posizioni diverse, che però non hanno mai il fatto di essere di provenienza magari più vicini alla Russia o meno non è mai stato un problema nei rapporti tra le persone. Ma quello che mi ha colpito è vedere come, malgrado diciamo tra virgolette la crisi, la protesta del Maidan avrebbe dovuto risolversi con la fuga di Yanukovych, la nomina di un nuovo governo, in realtà il centro della città è ancora completamente paralizzato e completamente teatro di questa che non è più una protesta, ma è un po' un presidio. I nazionalisti, gli attivisti, gli idealisti che ancora sono proprio stabilmente a occupare questa specie di enorme accampamento che non è solo non ricopre solo il Maidan che ormai conosciamo, la Piazza dell'Indipendenza, ma anche tutte le vie intorno. Significa tutto questo che c'è una parte del centro, una parte importante del centro della città in mano loro, completamente paralizzato e quindi con negozi chiusi e le vie completamente in il traffico naturalmente non può passare perché è tutto in mano, le vie sono in mano a questi accampamenti, anche però ricordiamo le barricate, ci sono montagne di fiori per ricordare le vittime degli scontri del 20 e 21 febbraio. Ecco, questo forse è uno dei segnali, dei segni di come in realtà la crisi non sia affatto risolta, se nel centro di una città moderna c'è ancora una situazione di questo genere e davvero sembra molto ma molto difficile che il governo abbia la forza di in qualche modo dichiarare chiusa questa fase e riportare questo pezzo di città dalla sua vita normale. Forse questo è uno dei segni più visibili, più tangibili che la crisi non è affatto risolta. Antonella Scott, mentre ci salutiamo, ci dobbiamo lasciare, ti dico velocemente che Kerry, sottosegretario di Stato americano, ha detto: siamo tutti convinti sulla strada del dialogo, e poi intanto però gli Stati Uniti inviano degli F-15 nei Baltici per pattugliamento della NATO. Insomma, sempre segnali contrastanti, ognuno cerca di arginare le proprie barriere in modo da mettersi al sicuro e poi fare le proprie dichiarazioni. Ciao Antonella Scott, ai prossimi giorni allora, buon lavoro. Arrivederci, buonanotte. Ciao Antonella. Prendiamoci la pausa di pubblicità, poi ci sono altri temi, vedo varie candidature per il Nobel. C'è per esempio Ale da Milano che dice: Papa Francesco per essersi opposto a un attacco alla Siria l'anno scorso, e Antonio da Pordenone: assolutamente solo Putin. E poi, grazie Beatrice, Roberto dice: Nobel a Snowden. E io, Francesco da Roma, dice: il Nobel per la pace candiderei Berlusconi, così non lo vince, se ne fa una ragione. Insomma, contento lui. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Vedo anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito delle candidature al Nobel per la pace. Claudio propone Kim Jong-un, dice: in una gara con Putin ha qualche possibilità di prevalere. Donata dice: non lui, non Putin. Alberto: scusate, non so se per caso Renzi lo vuole. William propone Peppa Pig, che effettivamente lo meriterebbe, è stato un successo miliardario mondiale questo personaggio da fumetto. Riccardo dice: il popolo ucraino tutto, oltre a Papa Francesco ovviamente. Adesso però vi ricordo, prima del prossimo tema, che riguarda un ultimo messaggio che leggevo, i temi principali di oggi. In Italia troppi squilibri eccessivi, questo è il monito di Bruxelles, che dice: non basta l'aggiustamento, bisogna ridurre il debito. Intanto Renzi propone la cura shock e dice per mercoledì: Jobs Act, scuola e piano casa. La legge elettorale intanto parte al via il suo iter alla Camera. Per quanto riguarda l'Ucraina ci sono tentativi di dialogo, intanto però la NATO fa sapere: aiuteremo la capacità militare di Kiev. Nobel per la pace, Papa Francesco candidato nella lista con Putin e la talpa Snowden. E poi vi ricordo che alla fine di Effetto Notte, quindi alle 22 questa sera al Calderon di Madrid, ci sarà l'amichevole Spagna-Italia. E adesso vi chiedo se ve lo ricordate questo saluto. Fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Buonasera. Bene, e adesso vi ricordate naturalmente che è passato un anno dal pontificato, da quando Papa Bergoglio è diventato Papa Francesco, e oggi c'era questa intervista sul Corriere della Sera che ripercorreva un po', faceva una specie di bilancio, anche se Papa Francesco dice: io i bilanci non li faccio, li faccio solo ogni 15 giorni col mio confessore, però diciamo che sicuramente si possono tirare un po' le fila di un anno di un pontificato dopo tanto tempo abbastanza straordinario. Credo sarà d'accordo con me Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Marco, quindi un'intervista molto ampia che si è aggiudicata al Corriere della Sera, e ci sono tanti aspetti della figura di Papa Francesco, di quello che ha detto in quest'anno, di quello che ha fatto, no? Soprattutto la sua, non so se possiamo definirla effettivamente, se non con troppo entusiasmo, ma insomma un pochino possiamo chiamarla così, diversità rispetto ai papi immediatamente precedenti, no? A lui, quindi l'attenzione, ha detto, ai divorziati, persino l'apertura sulle unioni civili. Ma io direi che noi possiamo tranquillamente, lucidamente dire che questo Papa sta avviando una rivoluzione nella Chiesa Cattolica, una rivoluzione sia per quello che riguarda il profilo del papato, sia il modo con cui la Chiesa Cattolica si pone rispetto al mondo. Il profilo del papato sta cambiando. Il Papa, quando è stato eletto, si è presentato come vescovo di Roma, anzitutto, non si è mai definito pontefice la prima sera, e soprattutto sta lavorando perché il Papa venga visto come un uomo che governa la Chiesa insieme ai vescovi, quindi non più come monarca assoluto, come una specie di imperatore, ma come punto di raccordo con l'Episcopato mondiale. Non è un caso che lui abbia creato un consiglio della corona di 8 cardinali di tutte le parti del mondo e soprattutto anche di tutte le tendenze all'interno della Chiesa Cattolica, e neanche che lui voglia fare risolvere problemi pastorali importanti come la famiglia, il divorzio, l'atteggiamento nei confronti delle convivenze gay, la contraccezione, non affacciandosi alla finestra e dicendo io la penso così, da oggi si cambia, ma con due sinodi, quindi con due convegni internazionali, dei piccoli concili dei vescovi di tutto il mondo che prenderanno la decisione, che suggeriranno la decisione giusta. Ecco, questo è un primo effetto di rendere la Chiesa, diciamo così, più partecipata, più comunitaria. Il secondo aspetto interessante di questa rivoluzione è lo sguardo della Chiesa verso il mondo, e non a caso lui dice che la Chiesa deve comportarsi come un ospedale da campo su un campo di battaglia con i feriti, e quindi una attenzione non più in termini di condanna o di una specie di dogana in cui si dice tu entri e tu non entri, ma di atteggiamento, di comprensione, di accompagnamento per tutti quei problemi, quindi i divorzi di cui lui parla anche adesso di nuovo sul Corriere della Sera. È interessante, è il primo Papa che usa questo termine, secondi matrimoni, non più in termini di condanna, ma come un fatto di cui la Chiesa deve occuparsi, anche la questione delle convivenze gay. Non dobbiamo dimenticare che quando lui era arcivescovo a Buenos Aires, e a Buenos Aires si fece la legge sulle convivenze, sì, e lui non disse una parola di condanna. Lui non è d'accordo con il matrimonio fra omosessuali, ma per quello che riguarda il potere dello Stato di legiferare su patti di convivenza, lui proprio oggi ha richiamato la questione dei patti di convivenza, lui non intende fare nessun tipo di crociata. E credo proprio, Marco Politti, che su questo non ci sia nessun precedente, no? nella Chiesa Cattolica, no, a livello di papi, voglio dire, non di preti di strada. Queste sono assolute novità. Pensiamo a un problema che ha travagliato tantissimo e continua a travagliare milioni di cattolici veramente fedeli, l'impossibilità gay, di fare, certo, la comunione per i divorziati risposati. Ecco, questa è una cosa in cui, per esempio, Papa Ratzinger diceva bisogna avere comprensione per queste persone, però non possono fare la comunione. Lui sta invece dicendo un'altra cosa: non esiste nessun peccato da cui un credente non possa riscattarsi. Senti Marco, diciamo che Papa Francesco, con questo suo modo di essere, come possiamo dire, meno tradizionalista, meno rigido, meno schematico, sicuramente ha conquistato alla Chiesa Cattolica molte più persone rispetto al passato. Ci sono anche tanti non credenti, no, che hanno simpatia. Quindi si vorrebbe credere che tutte le cose che dice siano effettivamente così, siano sentite col cuore, sia una sua convinzione profonda. Secondo te è più strategia di avvicinamento dopo gli scandali che si sono susseguiti fino praticamente a lui nella Chiesa Cattolica, che avevano sicuramente un po' oscurato l'immagine della Chiesa e anche l'affezione, diciamo, dei fedeli, o sono proprio le sue convinzioni profonde? Io direi è autentico, ma perché è autentica la strategia, così come il Concilio Vaticano II ha cambiato completamente la strategia della Chiesa Cattolica nei confronti della modernità, nei confronti della democrazia, nei confronti per esempio del mondo ebraico. per cui si è chiusa la fase ideologica dell'antisemitismo nella Chiesa Cattolica. Con il Concilio Vaticano II, si è riconosciuto che l'Islam crede nello stesso Dio che è il Dio di Abramo, quindi il Dio dei cristiani, e così in lui c'è questo cambiamento di strategia che è assolutamente autentico, non è un trucco, prima perché corrisponde al suo temperamento. Quando lui dice sul Corriere della Sera, per esempio, non ho mai capito la frase valori non negoziabili. Lui dà una picconata a tutta quella che era la linea ideologica dottrinaria del pontificato ratzingeriano e che in Italia ha impedito che venissero approvate leggi sul testamento biologico, sulla procreazione assistita, sulle coppie di fatto. Quindi è proprio un cambiamento di strategia. Diciamo anche un'altra cosa, questo Papa interessa moltissimo il mondo laico, agnostico, anche non credente, perché parla in una maniera molto diretta e perché non ha nessuna paura di confrontarsi con una società pluralista. Pochi hanno notato che in realtà questo è il Papa più moderno degli ultimi 50 anni, certamente, perché viene da una metropoli. Nessuno degli altri papi veniva da una metropoli milionaria come Buenos Aires. La grande Buenos Aires ha 13 milioni di abitanti, quindi tutti i tipi di incroci sociali, ma anche tutti i tipi di incroci di religioni, di razze, di etnie, di culture. Uno che viene invece da una città splendida come Cracovia o da un villaggio bavarese come Ratzinger o persino come Pio XII da una città come Roma, che certamente è un grande osservatorio prima della guerra mondiale dal punto di vista vaticano, ma diciamo era una città, possiamo tranquillamente dire, provinciale rispetto a metropoli come poteva essere Berlino o New York prima della Seconda Guerra Mondiale. Questo Papa viene proprio dalla modernità e quindi ha un rapporto anche con gli atei assolutamente dialogico, ma nel senso che non li considera come degli handicappati a cui manca qualcosa, li considera portatori di valori con i quali dialogare tranquillamente. Senti, allora, quindi hai parlato di testamento biologico, di procreazione assistita, un grosso scoglio resta però quello del ruolo femminile nella Chiesa, perché lui dice la Chiesa, c'è cioè l'articolo femminile, la Vergine Maria è più importante dei Vescovi e degli Apostoli, però questo non può bastare, no, a dare veramente un ruolo più centrale. Credo che questa intervista al Corriere della Sera, dopo che lui aveva già aperto il dialogo con Repubblica e anche con la stampa, è una intervista in cui lui vuole anche un po' frenare interpretazioni ed entusiasmi. Intanto lui dice non facciamo, diciamo, del Papa un idolo, una star, eccetera. E poi vuole lasciare adesso che le novità maturino in un processo di consultazione con i Vescovi. Allora, quello che lui ha detto sulla donna, su quanto è importante la Vergine Maria, è una cosa assolutamente tradizionale, certo. L'ha detta Ratzinger, l'ha detta Wojtyla. La cosa nuova che lui ha detto, non oggi, ma nell'intervista a Civiltà Cattolica, era un'altra, e cioè che le donne nella Chiesa, pur non diventando sacerdoti, devono andare in posti dove si esercita autorità e dove si prendono decisioni. Cioè le donne devono arrivare nel governo centrale della Chiesa, nella curia. Questa è una cosa che certamente non può avvenire prima che sia fatta la riforma della curia, quindi penso che bisognerà ancora aspettare un anno, ma è un punto anche di scontro con i conservatori che non vogliono vedere donne comandare accanto ai cardinali. Già. Però l'obiettivo è questo, e questa è la novità anche rispetto a Ratzinger e rispetto a Wojtyla. È già molto, è già qualcosa. Grazie Marco Politi del Fatto Quotidiano. Ciao Marco. Stammi bene. A tu. Ciao, anche a te. Ciao Carlo. Ciao. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. I titoli molto in breve, il monito di Bruxelles all'Italia, che dice in Italia squilibri eccessivi, non bastano gli aggiustamenti, ridurre il debito, Renzi propone la cura shock per mercoledì subito, Jobs Act, scuola e piano casa, e poi tentativi di prove di dialogo tra Stati Uniti e Russia, ma intanto la NATO fa sapere aiuteremo la capacità militare di Kiev. E parliamo di Europa adesso con il Congresso dei Popolari Europei che si apre domani a Dublino, congresso chiamato a decidere il candidato alla presidenza della Commissione Europea. Entra nel vivo la corsa a questo punto per il dopo Barroso, attuale presidente. Europa 24 notte. Verso le europee. La partita, dicono le indiscrezioni, si gioca tutta tra il francese Michel Barnier, vice presidente dell'esecutivo europeo e commissario per il mercato interno, e il lussemburghese Jean-Claude Juncker, ex presidente dell'Eurogruppo. Sono questi i nomi più papabili del PPE per la candidatura alla presidenza della Commissione europea. A decidere in vista delle elezioni europee del 25 maggio prossimo sarà il Congresso dei Popolari Europei che si apre domani a Dublino. Con la nomina del candidato dei Popolari entra nel vivo la corsa del dopo Barroso. Entro marzo tutte le principali formazioni europee avranno formalizzato il nome del loro candidato alla presidenza della Commissione. I socialdemocratici hanno scelto Martin Schulz, la sinistra radicale Alexis Tsipras, i liberaldemocratici Guy Verhofstadt, mentre i Verdi presenteranno due capilista, José Bové e Ska Keller. Il candidato migliore, dicono gli osservatori, dovrà essere un profilo adatto a coalizioni trasversali, perché è probabile che dalle elezioni non esca nessuna maggioranza assoluta. Bisognerà fronteggiare le forze anti-europeiste, ci dice l'europarlamentare Salvatore Iacolino. Forza Italia, PPE. Non dobbiamo escludere, anzi è assolutamente verosimile che vi possano essere, oltre che maggioranze variabili, peraltro vi sono state anche durante questa legislatura, ma vi sarà una componente significativa di un'area, come dire, politica e culturale di estrema destra, talvolta anche con posizioni assolutamente antagoniste, anche a sinistra, con una posizione esattamente decisamente contraria alle politiche dell'Unione Europea. Pertanto ci vorrà sicuramente una personalità poliedrica, ma sostanzialmente adattabile ad un percorso che sarà faticoso, complicato e nel quale le insidie non mancheranno. Anche per gli avversari socialdemocratici in primis, la sfida entra nel vivo. Gianni Pittella, PD, vicepresidente del Parlamento europeo, in corsa per il quarto mandato. Sarà una sfida principalmente basata su questa contrapposizione tra il candidato socialista e il candidato dei cristiano-democratici. Le altre candidature, benché rispettabilissime e di alto profilo, non sono candidature che incidono sulla posta in gioco. Grazie all'indicazione dei nomi da parte dei partiti politici europei, le prossime elezioni segneranno una svolta storica, dato che per la prima volta i cittadini potranno votare il candidato alla presidenza dell'esecutivo comunitario. Tenuto conto dei risultati delle elezioni, sarà un vertice del Consiglio europeo straordinario convocato a Bruxelles per il 27 maggio, subito dopo il voto, a decidere formalmente il nome del successore di José Manuel Barroso. E la proposta dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Un passaggio istituzionale molto complesso, dunque, che l'Italia sarà chiamata a vivere in prima fila, in quanto presidente di turno dell'Unione nel secondo semestre 2014, quando cioè nella fase iniziale della legislatura si faranno le nomine dalla Commissione al Parlamento europeo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dovete sapere, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che spesso l'apparenza inganna, no? Sembra un luogo comune, ma effettivamente è così. E ci sono anche delle cose, dei concetti, anche di grandissimo livello, che a volte non sono quello che sembrano, forse il mondo veramente va al contrario. Pensate alla pace, al concetto di pace, quindi al Nobel per la pace che si dovrebbe assegnare tra qualche tempo. Ebbene, oggi sono state le prime indiscrezioni su questa lista dei 270 nomi scelti da migliaia di persone che sono abilitate a depositare le candidature. Ebbene, ritorna naturalmente, come si può immaginare, il nome di Papa Francesco, ma accanto a quello di Papa Francesco c'è anche il nome di Vladimir Putin, il presidente russo. Questa notizia è stata annunciata dal direttore dell'Istituto Nobel ad Oslo, Geir Landstad, e rimbalzata poi subito, potete immaginare, sui media russi. A candidare il presidente russo è l'Oscura Accademia Internazionale dell'Unità Spirituale della Cooperazione tra Nazioni del Mondo. Lo ha fatto questa candidatura lo scorso ottobre. Tra i sostenitori anche il deputato e icona musicale dell'epoca sovietica Iosif Kobzon, soprannominato dai media il Frank Sinatra russo, sia per la sua voce potente che anche per i suoi presunti legami con ambienti mafiosi. Insomma, se voi immaginate Putin adesso tra la crisi ucraina, le leggi omofobe, le Pussy Riot, la Cecenia ormai da molti dimenticata, le presunte eliminazioni di avversari politici, non un pochino un effetto straniante questo lo fa. Che dici Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa e poi famosissimo col suo Buongiorno, con le trasmissioni TV eccetera. Ciao Massimo. Ciao Roberta, buona serata a tutti. Ma è, insomma, è una notizia che ci mette di buon umore, no? Certo. Sono dei mattacchioni questi della, insomma, ogni tanto è anche bello rilassarsi un attimo. Ma in effetti, sai, insomma, voglio dire, perché no anche Putin? Abbiamo visto veramente. Non si nega nessuno, via, di tutti questi anni, fra i candidati. Speriamo che non lo vinca, ecco, almeno questo ci auguriamo che ce lo risparmino. E come dire, non so, a Barba Blu che gli riconoscono il premio come protettore delle donne, no? E allora potrebbe essere spinto a non uccidere più. Cosa dici, Massimo? Tornando seri, penso che poi alla fine in questa vicenda specifica non mi sento neanche di dipingere Putin come il cattivo, perché insomma mi pare più uno legge e si informa su quello che sta succedendo, più la distinzione fra buoni e cattivi è molto sottile, perché non è che dall'altra parte ci siano queste meraviglie, insomma anche lì ci sono personaggi abbastanza oscuri, nel nuovo governo ucraino ci stanno dei filo fascisti, insomma non è che sia proprio questa meraviglia, certo. Lui in fondo difende gli interessi suoi, cioè se Sebastopoli ha la terza flotta più importante dell'ex Unione Sovietica, della Russia, è chiaro che è un interesse vitale, insomma credo che se ci fosse una rivoluzione in un paese dove gli Stati Uniti hanno la loro terza flotta, penso che anche loro farebbero qualcosa, ecco, per difendersi. Io in questo vedo purtroppo la politica realpolitik, ma sì, ma noi, poi a me quello che fa molto rabbia è vedere i politici, lo stesso Putin, che la dipingono con dei valori, lo facciamo per la democrazia, lo facciamo per dei biechi, ma biechi anche legittimi interessi economici e di potere, perché poi ci si muove sempre per quelli, cioè è dai tempi della guerra di Troia che gli esseri umani fanno la guerra per motivi economici, poi però ci costruiscono sopra delle leggende. Una volta erano appunto la regina che veniva rapita, adesso è la democrazia, la libertà, ma in realtà insomma la democrazia e la libertà, come abbiamo visto anche in questi anni, sensibilizzano i governanti di certi paesi solo quando nel paese dove in gioco la democrazia ci sta magari il petrolio o il gas, ecco. Dopodiché è chiaro che su tutte le altre cose invece che hai detto, a cominciare dalle persecuzioni nei confronti dei dissidenti degli omosessuali, omofoba eccetera, insomma è evidente che stiamo parlando di un uomo che è comunque un conservatore in tutto, insomma, ecco, e però che evidentemente ha saputo toccare delle corde della grande madre Russia, che si sentiva comunque ferita e offesa e umiliata dalla caduta del muro, che aveva significato non solo il crollo di un impero ideologico ma anche di un impero reale, economico, di potere, e quest'uomo gli ha restituito un po' di orgoglio nazionale. Insomma, io ho letto un bellissimo libro, Rimonov, l'anno scorso, che è la storia di questo personaggio abbastanza strano, che solo in Russia può nascere, un personaggio ipernazionalista, però anche con dei valori, il quale appunto è favorevolissimo per esempio a quello che sta facendo Putin adesso, perché comunque incarna un determinato senso di revanchismo anche, no? dei russi, che avevano questo grande impero che competeva con quello americano, e oggi si trovano sovietica. Invece ormai retrocessi, no? Nella graduatoria mondiale sono sotto anche alla Cina come grande potenza, e quindi Putin accarezza questa loro voglia di rivalsa. Comunque, Massimo Gramellini, la motivazione più grossa di questa Accademia Internazionale dell'Unità Spirituale della Cooperazione tra Nazioni del Mondo russa, no, che lo ha candidato. Diamolo a loro il Nobel, ecco. Un nome che dentro c'è di tutto, Accademia, come dirlo ancora una volta, Accademia. Allora, aspetta che devo prendere fiato, ecco. Accademia Internazionale dell'Unità Spirituale della Cooperazione tra Nazioni del Mondo. L'unità spirituale della cooperazione. Io direi, ecco, la principale motivazione che muove questa accademia, di cui non ripeto poi il resto del nome, è per il ruolo che Putin ha giocato nell'impedire un attacco armato contro Damasco, contro la Siria, quindi spingendo per mettere l'arsenale chimico del dittatore Assad sotto controllo internazionale. Questo bisogna ricordare, per carità, dopo migliaia e migliaia di morti, di torture eccetera, a un certo punto. E peraltro continuano ancora. Peraltro, non ce ne interessiamo più, non è che qualche mese in Siria si sparano addosso passo dei fiori, cioè continuano esattamente le cose come prima. Quindi in conclusione, Massimo Gramellini, possiamo dire che Putin, se vuole, si merita semmai il premio alla Realpolitik, se proprio, ma posso augurarmi, non so tu, che il prossimo 10 ottobre, quando Oslo verrà assegnato il Nobel per la pace, non tocchi a lui, ci possiamo almeno augurare questo? No, ma io penso proprio di mi sentirei di escluderlo. Che... Possiamo fare una previsione abbastanza realistica. No, anche perché, insomma, sono 278, non mi sembra sì, i candidati, diciamo, i che candidati, in mezzo a quella diciamo lista che forse un altro credo più che meritevole. Lui parte da, intorno alla 278esima posizione come sangue. Non so se riuscirà a risalirle tutte, non credo, non, e non me lo auguro. Gandhi era uno che meritava il premio per la pace, ecco, per intenderci. Secondo me sono le persone come Gandhi che devono vincere quel premio, non quelle come Putin. Ci aggiorniamo allora il 10 ottobre, Massimo Gramellini, magari anche prima, eh? Ci sentiamo. Buona serata a tutti. Ciao, ciao Massimo, ciao, ciao, grazie. Adesso guardo ancora un po' i vostri messaggi a proposito di candidature. Avete sentito il parere di Massimo Gramellini? Raffaele dice no a Putin, ma pure quello dato Obama vale quanto il delegato. Un po' si diceva, insomma, con Massimo. Corrado, tipo quello del nostro pregiudicato sempre per la pace. Poi c'è invece Cino che dice assegnare un premio per la pace oggi non è facile. Siamo nell'era dei conflitti, delle insofferenze, degli arrivisti arroganti senza scrupoli, delle esasperazioni, delle estremizzazioni. Forse sarebbe meglio sospendere questa ipocrisia, questa ipocrita farsa, e rimandarla a tempi migliori, se mai ci saranno, precisa tra parentesi. Laura scrive promoveatur ut amoveatur, evidentemente per promuoviamolo per fare in modo, insomma, che poi in questo modo si rilassi, una cosa del genere. Come ho detto oggi in un tweet, insomma, dare la candidatura al premio Nobel a Putin, il premio Nobel a Putin per la pace, potrebbe essere una strategia sedativa, tipo il riconoscimento a Barba Blu come protettore delle donne. Massimo scrive: dopo Obama solo la Merkel più ipocrita di lui. Insomma, vari pareri quindi negativi. Bene, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Adesso però c'è una pausa e poi vi ricordo ancora una volta i temi principali.